e chi lo so, alta nominea, viaggio e cammino in incognito in livrea, ma nobilone ho 100.000 quarto, il mio blasone in vitagli di sarto, e brilla l'occhio come prisma di vetro, e ognuno va d'occhio e davanti e di dietro. Qui sono ambasciatore al capitano. Alias legal mezzano, io son l'amore alla bella Rosaura, in via il più gran guerriero, a dir d'un cuor sincero so aver repertorio. Andate, o mia simpatica, portate la proposta Arlecchinissimo, qui attende la risposta.